fossi yo, viene lento divagar una música brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Ci sono momenti in cui noi vorremmo che il reale concreto mondo che ci circonda fosse soltanto un'illusione. Ci sono momenti in cui noi vorremmo che la impalpabile materia del nostro ricordo diventasse qualcosa di concreto, di percepibile, qualcosa che ci si potesse porre davanti come una prova tangibile di aver vissuto un certo momento. Divise in altalena tra questi due istanti, ci poniamo questa mattina di fronte al problema di poter selezionare, richiamare in superficie o cancellare per sempre i nostri ricordi. Nessuno di noi è in grado, purtroppo, di descrivere Matrix agli altri. Dovrai scoprire con i tuoi occhi che cos'è. È la tua ultima occasione. Se rinunci, non ne avrai altre. Pillola azzurra, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio. Ti sto offrendo solo la verità. Ricordalo. Niente di più. Pillola azzurra o pillola rossa? Questo è Morpheus che offre a Neo la possibilità di abbassare il velo dell'illusione sulla realtà che lo circonda. Con la pillola rossa vedrà cosa è realmente il mondo, un cumulo di macerie, un cumulo di distruzione. Qualcosa le sembra passata una sorta di furia sterminatrice, ma quello è il mondo, quella è la realtà con cui bisogna prendere contatto. Invece pillola rossa e pillola azzurra è continuare a illudersi che il mondo sia quello che ci circonda, un mondo fatto di piacevolissimi ricordi che sembrano così vivi e così in vita da poter essere attinti come se fossero la nostra realtà, come se fosse ciò che percepisce i nostri sensi. Perché questa mattina la domanda è molto chiara, è rivolta a tutti quelli che ci ascoltano, soprattutto a quelli che si sentono profondamente toccati da una realtà disastrosa che coglie in maniera tangibile e concreta alcune persone in una determinata zona del nostro paese. Altre persone la percepiscono di riflesso, come appunto fosse una sorta di ondata di immagini, di ricordi altrui che ci rimangono appiccicati addosso. Ecco, sia che noi siamo, ci troviamo in questo momento al centro della distruzione, al centro del mondo in cui è passata la mano della distruzione. E quindi cosa vogliamo fare? Dimenticare e immaginare che il mondo sia quello che vediamo, come è sempre stato? Vogliamo prenderci la pillola rossa e toccare fino in fondo il cuore del nostro ricordo, anche se questo ricordo è un ricordo doloroso? Beh, oggi questa possibilità sembra di esserci. La pillola di Morpheus è stata inventata, o perlomeno siamo molto vicini al fatto che possa esistere. Ieri Repubblica ha dedicato un'intera pagina al fatto che una molecola potrebbe cancellare ogni nostro brutto ricordo. Supponiamo che gli scienziati siano in grado di cancellare determinati ricordi conservati nella vostra mente. Potrebbero farvi dimenticare una paura cronica, una perdita traumatica, perfino una cattiva abitudine. Un gruppo di ricercatori recentemente è riuscito in un'impresa del genere, con un'unica dose di un farmaco sperimentale che blocca l'attività di una sostanza di cui apparentemente il cervello necessita per trattenere buona parte delle informazioni. Qualcuno si domanderà il perché dello studio e la ricerca su una molecola selettiva dei nostri ricordi. I nostri ricordi sono la nostra vita, la nostra personalità. Noi siamo i nostri ricordi. Se potessimo collocare la nostra coscienza al di fuori di questa scatola fatta di carne, muscoli, nervi, apparati organici che ci tengono in vita, ci danno la percezione che esista anche una vita concreta oltre quella del nostro pensiero, noi non saremmo altro che i nostri ricordi e la nostra capacità di immagazzinarli, metterli in relazione, analizzare il mondo attraverso i nostri ricordi. Beh, non sempre però noi ci sentiamo forze sufficienti per tollerare o per sentire il peso di tutti i nostri ricordi. Quindi sono ricordi che noi ameremmo mettere in una memoria riposta, una memoria più profonda rispetto a quella che ogni istante ci dà la cognizione di essere anche esito e frutto dei nostri ricordi. E quindi evidentemente la scienza ha pensato di aiutarci in questa operazione. Il meccanismo è apparentemente semplice. La molecola PKMZ ha la funzione di immagazzinare i ricordi nella neocorteccia cerebrale e la sua presenza è essenziale perché i ricordi siano preservati. Inibendo questa molecola viene meno la comunicazione neuronale per attivare il ricordo, che dunque viene cancellato. L'esperimento sui topi, condotto dai ricercatori del Downstate Medical Center dell'Università dello Stato di New York, è stato così effettuato. Alcuni topi, inizialmente, hanno imparato come trovare cibo in una gabbia ed evitare le scosse elettriche in alcuni punti. Anche a distanza di giorni, si è verificato che gli stessi topi si ricordassero quali fossero i punti da evitare per raggiungere il cibo. In seguito, è stata fatta un'iniezione nel cervello di un farmaco che interferisce con la molecola PKMZ e che ha impedito ai topi di ricordare il percorso sicuro. È stato dunque cancellato il ricordo del percorso sicuro dai loro cervelli. Professor Alberto Olivero, buongiorno. Buongiorno. Il professor Olivero, ricordo, diretto per il CNR l'Istituto di Psicofarmacologia, insegna neuroscienza alla Sapienza di Roma. Noi abbiamo riportato sotto forma di scheda la notizia, il pezzo del New York Times News che era stato riportato ieri da Repubblica. Sulla effettiva capacità di questa molecola di selezionare i nostri ricordi, al di là della suggestione, cosa c'è di concreto, professore? Ma di concreto ci sono ancora degli esperimenti a livello animale, prevalentemente su memorie di tipo emozionale, quindi legate, appunto, come dicevate, alla associazioni con stimoli ansiogeni, che c'erano paura negli animali e così via. Anche perché in precedenza sono stati fatti degli altri esperimenti con sostanze meno selettive, che però bloccano le memorie emotive. E se ne era stato suggerito un possibile impiego per ridurre l'impatto emozionale di traumi, come potrebbe essere, non so, una violenza su una donna o situazioni del genere, oppure anche in rapporto ad alcuni stress post-traumatici, insomma. Ecco, professore, è riduttivo e semplificativo usare la metafora dell'hard disk. Sembra che la nostra coscienza sia come un hard disk in cui si comincia a poter mettere le mani, a capire le varie partizioni, come sono collocati i vari file, e intervenire sui vari file. Beh, penso che sia riduttivo in quanto non interveniamo su specifiche memorie, possiamo intervenire su un'esperienza subito dopo che questa si è verificata, cercando di attutirne l'impatto emotivo. Quando parliamo di esperienze che hanno una forte componente emotiva, questo resta ancora da fare sugli esseri umani, da provare sugli esseri umani, anche se ci sono con altre sostanze, appunto, come vi dicevo, una lunga storia di uso, soprattutto negli Stati Uniti, ad esempio, non so, nelle cosiddette emergency room, cioè nei pronti soccorsi degli ospedali di alcuni stati, le persone che hanno subito un forte stress vengono medicate con queste sostanze per ridurre, appunto, l'impatto di possibili memorie emotive. Quindi, in caso, io sto pensando alla situazione che viviamo noi tutti insieme questi giorni, chi la vive più intensamente, chi è stato colpito nella propria carne, in caso di una grande calamità avrebbe un effetto di attutire il senso di disperazione per ciò che si è perduto? Ma il senso di disperazione non lo so, perché quella è un'elaborazione un po' di un evento. Non so nemmeno se sia, diciamo, dal punto di vista filosofico una buona idea quello di agire su questi traumi, su questi aspetti, perché anche l'esperienza umana è importante, si basa sulla loro rielaborazione. Certo, quando in alcuni casi la perdita è devastante, anche in passato si utilizzava dare, poniamo, dei tranquillanti per tamponare in un primo momento così lo stato di compromissione emotiva. In questo caso non lo so, dipende dalla singola persona, dipenderebbe, perché ancora questa molecola non è utilizzata, dalla singola esperienza, però diciamo il dolore e le esperienze traumatiche fanno anche parte della vita, quindi non so quanto sia ipotizzabile l'idea di cancellare tutto ciò che ci disturba. Ma la ricerca che sta alla base di questa pillola, se non è una ricerca per cancellare alcune fasi traumatiche della vita, di cosa si tratta? Di tenerle una sorta di memoria dormiente per poterle poi, quando si ha possibilità di elaborarle, riportarsele in superficie e farci i propri conti? O questi ricordi andrebbero cancellati per sempre, non mi ricorderò mai più? Cancellati eccessivo, andrebbero attutiti, nel senso che negli esperimenti fatti sugli animali sono molto netti e lineari come tipo di protocollo sperimentale, negli esseri umani la situazione è più complessa. Quindi ancora è un po' prematuro che noi usiamo la metafora delle macchine che usiamo ogni giorno per lavorare, per definire la nostra memoria. Ieri un tassista che mi accompagnava al lavoro non si ricordava esattamente un nome, ha detto devo resettare la mia RAM per ricordarmi questa cosa qua. Noi siamo abbastanza vicini comunque a usare questa facile maniera di elaborare e descrivere il nostro pensiero. Sì, bisogna dire che gran parte delle memorie continuano ad essere presenti anche se a livello inconscio. Molto spesso, soprattutto con l'età, non ci ricordiamo un nome, un cognome, qualche cosa di simile. Poi questo può emergere perché la nostra mente continua ad elaborare quell'informazione a livello inconscio. Quindi diciamo, se vogliamo usare la metafora, è come se si verificasse ancora una ricerca, tipo con questi Google Search o cose del genere, che frugano nell'hard disk finché viene trovato un dato. È una metafora però, perché le memorie biologiche sono diverse da quelle elettroniche. La ringrazio, professor Olivero, buona giornata. E quello che vorrei riprendere dal filo di questa notizia che abbiamo dato questa mattina è quanto nella nostra memoria fantastica legata a film, a romanzi, a racconti fanciulleschi anche di età adulta, sia vicino questo concetto della memoria come qualcosa di trasportabile, di trasferibile. Ricordate Blade Runner, ricordate che la formula chiave per scoprire gli umani veri, quelli nati da un uomo e una donna, da quelli simulati, dai progetti in carne, era proprio cercare di fare un'analisi profonda dei loro ricordi. Erano ricordi che avevano realmente vissuto o erano ricordi altrui che erano stati riversati nella loro mente per farli assomigliare gli uomini? Guarda, sono io con mia madre. Sì. Ricordi, all'età di 6 anni, tu e tuo fratello entraste in un edificio vuoto per la finestra della cantina e giocavate ai dottori. Lui ti mostrò il suo e quando toccava a te ti spaventasti e fuggisti. Te lo ricordi? L'hai mai raccontato a nessuno? A tua madre, a Tyrell, a nessuno? Ricordi il ragno in quel cespuglio davanti alla tua finestra? Il corpo arancione, le zampe verdi. Lo guardasti fare la rete tutta l'estate. E un giorno ci vedesti un grosso uovo. L'uovo si schiuse. L'uovo si schiuse. E centinaia di ragnette ne uscirono e la divorarono. Innesti. Non sono ricordi tuoi, sono di qualcun altro. Della nipote di Tyrell, forse. Mi scrive su Facebook Emiliano: attenzione, attenzione, cancellare alcuni file dall'hard disk potrebbe danneggiare uno o più programmi del computer. Sei sicuro di voler smuovere i file selezionati? Sì o no? 800240024, stiamo parlando della rimozione artificiale dei propri ricordi o comunque del poter maneggiare la propria memoria. Alessandro mi sta scrivendo su Facebook, sempre tenendo viva la metafora che in fondo è quella più calzante, più felice, dell'hard disk inteso come nostra coscienza, come nostra memoria, e dice: cosa ne faremmo poi dopo la rimozione di una memoria fatta groviera? E gli ho risposto: basta deframmentare. Esiste nella immaginazione fantasmagorica dell'umanità di pensare che il ricordo possa essere manipolato non solo attraverso la rimozione che facciamo ogni giorno o la collazione, il confronto con la nostra esperienza e l'esperienza altrui, quando consideriamo valido l'aiuto che può darci un altro essere umano nell'elaborare il nostro ricordo spiacevole. Il film con una pessima titolazione uscito in Italia sotto appunto il nome Se mi lasci ti cancello. E Se mi lasci ti cancello è un film di Michael Gondry dedicato appunto a una coppia di amanti che hanno a un certo punto della loro infelice storia d'amore il desiderio reciproco di cancellarle, quindi si rivolgono a una clinica, La Cuna, che aveva la meravigliosa facoltà di riuscire a cancellare partizioni della nostra memoria, e quindi sia lui che lei in tempi diversi si affidano a questo fantomatico medico che si dichiara pronto a cancellare la storia d'amore che non vogliono più ricordare. La prima cosa che dovrebbe fare per noi, signor Berish, è tornare a casa e raccogliere qualunque oggetto possa avere un qualche collegamento con Clementine. Qualunque cosa. Noi useremo quegli oggetti per creare una mappa di Clementine nel suo cervello, è chiaro? Perciò ci serviranno foto, vestiti, regali, libri che magari lei le ha comprato, CD che avete comprato insieme, appunti del suo diario. Vogliamo che liberi la sua casa, che liberi la sua vita da Clementine. Completata la mappatura, i nostri tecnici procederanno alla cancellazione a casa sua stanotte. In questo modo, domattina, quando si sveglierà, lei si ritroverà nel suo letto come se nulla fosse successo, con una nuova vita davanti. Il procedimento della clinica La Cuna funziona riportando appunto in superficie le memorie legate a degli oggetti. Noi siamo circondati da supporti del nostro ricordo, da supporti della nostra memoria, ma prima le fotografie avevano anche una loro tangibilità, erano incorniciate, avevano una sorta di luogo nella geografia sacra delle nostre case, privilegiato. Le fotografie oggi sono digitali, quindi ce le portiamo dietro, quindi sono una sorta di icone impalpabile a cui comunque appoggiamo dei ricordi. E poi ci sono i vestiti, poi ci sono gli odori delle persone che rimangono, di cui rimangono impregnati gli oggetti di uso comune di queste persone, c'è l'aura delle persone che rimane appiccicata alle case con cui sono state passati dei momenti assieme a queste persone. E quanti di voi avranno impossibilità di vivere in luoghi fisici, hanno vissuto magari una grande storia d'amore finita in maniera tragica o inaspettata? Non voglio più vedere quel posto perché lì sono stato felice con una persona che oggi non voglio più ricordare. Beh, lentamente questi supporti possono essere depotenziati del ricordo che portano addosso e quindi il ricordo può sparire. Adesso, signor Berish, cercheremo di tracciare una mappa del suo cervello. Bene, cominciamo. Se vogliamo che la procedura prenda il via stanotte, dobbiamo metterci al lavoro. Vorrei che lei reagisse a questi oggetti, signor Berish. Dietro a questo c'è una bella storia. Signor Berish, avrei una lettura emozionale migliore se fosse così cortese da astenersi da qualsiasi descrizione verbale degli oggetti. Si concentri sui ricordi, per favore. Mi scusi. Attività cerebrale buona. Bene. Risultati soddisfacenti. Molto bene. Ecco un altro oggetto. Prossimo. 80024 0024, quanto riuscireste voi a portare al medico cancellatore di memoria gli oggetti più cari perché volete depotenziarli, volete farli sparire assieme al ricordo di alcune persone? Lei, Sergio, lo farebbe mai? Pronto? Sì. Eccomi. Anzitutto complimenti per la trasmissione. Sì, bene. Lei affascina con questo. Vabbè, andiamo avanti, perdiamo tempo. Io le dico che non prenderei mai questa pillola. E perché non la prenderei? Perché io sono il risultato delle mie esperienze negative e positive. Perciò come sono adesso, sono il risultato di quello che mi è capitato. E non è detto che dalle esperienze negative si soffre soltanto, ma si può anche imparare. Sì. C'è un detto a paese mio che dice che non bisogna attraversare il fiume come una papera. La papera non si bagna, cioè non le rimane attaccato niente addosso, non ha imparato niente in sostanza. Una persona che passa attraverso una esperienza negativa e non trae qualche conclusione positiva, qualche lezione per non far più lo stesso errore. Sì, questo è senz'altro vero, però mi permetta di dire che né io né lei abbiamo avuto, almeno immagino, esperienze così traumaticamente forti e devastanti da desiderare di cancellarle. Io almeno ho avuto una vita fatta di alti e bassi, di tristezze, di momenti di odio, di disperazione, momenti in cui sembrava che tutto finisse, ma sono stato, grazie a Dio, fortunato, e dicendolo lo dico con tutto il beneficio del dubbio possibile, di non aver mai avuto nulla così atrocemente forte e terrificante da volerlo cancellare e dimenticare. Tutti anche cattivi ricordi, anche odiose situazioni, dalle quali però in fondo ho sempre imparato qualcosa. Ma non è così per tutta l'umanità. E probabilmente è stata superficiale la lettura del film che stiamo sentendo, tanto che i due protagonisti a un certo punto si rendono conto di aver fatto una grande stupidaggine e si rincorrono nei meandri della loro immaginazione condivisa alla ricerca di brandelli di ricordo, perché non accettano il fatto che qualcuno possa amputare loro anche quella fetta di esistenza vissuta che in un attimo, magari di sconforto, hanno deciso di cancellare. Non lo voglio più fare. Chiedo scusa, ho sbagliato. Non lo voglio più fare. Riesci a sentirmi? Ho cambiato idea! Non lo voglio più fare! Allora, vediamo. Perché per cominciare non mi racconta tutto quello che ricorda? Mirzwiak! Mi deve svegliare! Oh, a me dispiace, signor Berish. Credevo che avesse capito che cosa sarebbe successo. Non lo so. Lei la sta cancellando da me? Tu mi hai cancellato. Per questo sono qui. E questo è il motivo per cui lo faccio. Ti chiedo scusa. Tu mi conosci? Sono impulsiva. Joel, ho un'altra idea per risolvere il problema. Questo è un ricordo di me. I cancella memoria stanno arrivando, perciò perché non mi porti da qualche altra parte? In qualche ricordo che non mi riguarda. E stiamo nascosti fino a domattina. Giuseppe Neri, buongiorno. Ciao Gianluca. Ecco, Giuseppe, lo ricordo, neuropsichiatra, vicepresidente della Società Italiana Neurologi Ospedalieri, ma per gli ascoltatori di Melog è lo psichiatra trovato all'aeroporto che ci segue fedele e attento ogni volta che abbiamo bisogno di un sussidio, di un supporto nella sua disciplina. Giuseppe, vedi che alla fine siamo riusciti a dimostrare che i cancellatori di memoria appartengono sì probabilmente a un sogno che sta seguendo la ricerca scientifica, ma allo stesso tempo sarebbero quanto di più detestabile noi potremmo mai incontrare. Sono d'accordo con te, mi sono mandato a documentare un pochino per capire questo lavoro dei colleghi americani e allora forse, a parte le cose molto accurate che ha detto il professor Oliverio, varrebbe la pena di riflettere sul fatto che se tu prendi una notizia che deriva da un articolo pubblicato su una rivista scientifica, la trasferisci sul New York Times, il New York Times viene citato dall'ANSA, l'ANSA viene ripresa, quello che arriva, come si diceva una volta, alla casalinga di Voghera, al pastore Lucano, può essere molto diverso da quello che ha fatto questo team di scienziati che tra l'altro non sono solo di New York, ma c'è un gruppo che sta in Israele allo istituto Weizmann e hanno fatto degli studi molto eleganti ma su un modello di topolini, cioè è importante capirci bene, è uno studio molto elegante fatto sui topolini e sul principio di una cosa che noi tradurremmo in italiano induzione all'avversione al sapore, condition taste aversion, che dice che è stato dimostrato che una certa sostanza, che tra l'altro è un peptide, induce quei topolini in quel modello a dimenticare che avevano imparato una lezione. E questo è già diventato nella vulgata giornalistica la pillola che cancella i brutti ricordi. Esatto, esatto. Però questo forse ci offre lo spunto per riflettere un pochino su quello che noi crediamo che sia la memoria. Però sai, su un piano più vasto è comprensibile e secondo me indicatore di una tendenza, di considerare ormai la memoria come qualcosa di totalmente manipolabile, riorganizzabile. Noi possiamo resettare il nostro hard disk della coscienza o possiamo naturalmente riformattarlo secondo il sistema operativo che più ci piace. Questa almeno è l'illusione. È una metafora di tipo informatico che ci piace molto e va di moda, però a me piace più riflettere su un collega neurologo moravo, che poi è stato molto più conosciuto perché poi ha fatto altre cose, ma il collega neurologo nato in Moravia, che si chiamava Freud, prima di scrivere cose fondamentali, ha fatto il neurologo per alcuni anni, e lui ha tirato fuori questo discorso, che adesso è di pubblico dominio, sulla rimozione, che è l'elemento di fondo su cui bisogna riflettere, perché se anziché andare a pescare i meccanismi mediante i quali noi siamo abituati a allontanare dalla nostra coscienza pensieri o residui di memoria che non sono accettabili, se anziché questo, che è un processo che fa parte della nostra mente, noi avessimo, come alcune informazioni indurrebbero a ritenere, dal drugstore negli Stati Uniti o dal nostro farmacista sotto casa in Italia, alla pillola magica che ha una selettività di azione e di cancellazione su frammenti precisi di file, certo che ci piacerebbe pensare che tutto fosse così facile. Quindi non diciamo è per niente che così. Non diciamo, è per niente così. Giuseppe, che il deframmentatore della nostra memoria ce l'abbiamo già nel nostro apparato organico e psichico. Bene. E sappiamo come farlo usare. Visto che stiamo parlando di ricordi, come elemento costitutivo della nostra esperienza, quindi della nostra coscienza, quindi noi siamo i nostri ricordi, anche su richiesta dei più affezionati melogmani, ma ancor prima nella memoria del tempo radiofonico, vi ricordo semplicemente, e lo mando a sorpresa, vediamo quanti in voi accenderà un ricordo, qualcosa che ha fatto molto parte della nostra trasmissione radiofonica. Il console era ormai vecchio. Quella notte, come ogni notte, stava facendo la doccia prima di andare a dormire. Mentre si insaponava ricordava sua moglie Elisabetta. La rivedeva sorridente mentre lo prendeva in giro appoggiata al frigorifero. Poi rivide suo figlio a 5 anni, una domenica mattina con le sue... I cammellini della memoria è il racconto scritto da un poeta, Filippo Martinez, morto all'età di 50 anni, non morto, ma in realtà decise che a 50 anni lui sarebbe morto al mondo. È la storia di un console, ormai vecchio, che una sera facendo la doccia riguarda, ripassa e rassegna i propri ricordi, poi va a dormire e mentre dorme si accorge che nel sonno qualcosa lo disturba, c'è qualcosa di strano. Apre gli occhi e si accorge che dei piccoli cammelli entravano e uscivano dalle sue orecchie e ogni cammello portava un pacchetto in mano. E cosa c'era in quei pacchetti? Cercò di ripetersi che era stanco, ma ormai non poteva più crederci. I cammellini c'erano veramente ed erano una moltitudine. Stavano attraversando le sue orecchie e portavano chissà dove pacchetti rubati, chissà come, nella sua testa. Un cammellino chiese all'altro cosa avesse nel suo pacchetto. E questi gli rispose che aveva un bel ricordo. Disse che stava portando via l'immagine di Filippo con le sue ultime scarpe nuove. Il console ebbe un brivido. Cercò nella memoria l'immagine di suo figlio Filippo con le sue ultime scarpe nuove e non la trovò. Aveva la sensazione che quell'immagine fosse stata sua per tanto tempo, ma per quanti sforzi... Cosa sta accadendo? Nell'immagine di Martinez, morire significa perdere i propri ricordi. Non si muore subito, si comincia a morire a un certo punto della nostra vita e quando i cammellini della memoria, uno dietro l'altro, ci entrano nelle orecchie e portano via i nostri ricordi. Ce li rubano senza che noi ce ne dobbiamo accorgere. Non ci accorgiamo, certe parti della nostra vita sono scomparse. Lentamente, lentamente, notte dopo notte, pacchetto dopo pacchetto, se ne vanno tutti i ricordi. E quando sarà andato via anche l'ultimo ricordo, vorrà dire che noi saremo morti. Cosa accadrà tra 2 anni, 7 mesi e 4 giorni? La voce del console era secca, come di chi non ha più saliva. Il cammellino prigioniero fra le dita era confuso, ma seppe comportarsi in modo ineccepibile. Subito si scusò, anche a nome di tutti i suoi colleghi, per essersi lasciato sorprendere. Poi disse che era davvero dispiaciuto, che incidenti come questo non erano capitati più di 4.000 volte in tutta la storia dell'umanità e avrebbe sicuramente continuato a tergiversare se il console con decisione non avesse ripetuto la domanda. Il piccolo prigioniero, questa volta, fu preciso ed essenziale. Fra 2 anni, 7 mesi e 4 giorni, esattamente alle ore 21:36, tu morirai. Buongiorno Paolo. Buongiorno, buongiorno a tutti. A lei i cammellini hanno portato via molti ricordi? Ma diciamo, i ricordi, quelli non necessari, io le definisco così, della mia vita, sono stati tolti mettendo in atto la mia buona volontà e soprattutto applicando dei procedimenti che sono più facili di quanto si possa pensare. Io personalmente nel corso della mia vita ne ho passate tutti i colori, quindi è ovvio che qualcuno mi dicesse ti rendo ricco e ti riporto all'infanzia, direi assolutamente no, perché non ci vorrei tornare con quelle condizioni, con quei ricordi. Diciamo che i ricordi non si cancellano, ma si possono modificare i contenuti e soprattutto l'effetto che i ricordi possono avere sulla nostra vita quotidiana. Financo, diciamo, a portare... Quindi quei momenti non le appartengono più? No, mi appartengono come ricordo, ma non come aspetto emozionale. O meglio, posso anche provare delle emozioni, ma che non hanno più gli effetti che avevano prima sulla mia vita. Non so se sono riuscito a spiegarmi. Aspetta, Giuseppe Neri, ecco, cosa fa questo signore? Se li fa da solo, diciamo, il meccanismo? No, lui dice una cosa assolutamente corretta e giustissima, nel senso che l'elemento distintivo e caratterizzante di quella che noi chiamiamo traccia amnestica, cioè il pezzetto di memoria, è il colore affettivo ed emotivo che noi gli appiccichiamo addosso. E se lui è stato, nell'arco della sua vita, capace di in qualche modo elidere, interrompere, staccare la connotazione affettivo-emotiva dalla traccia di memoria, è ben vero che lui riesce a mantenere l'informazione circa gli eventi, ma da depurarla dal contenuto emotivo-affettivo. Non tutti e non facilmente arriviamo a questo. Soprattutto se riuscissimo a farlo tutti da soli, gli psichiatri non avrebbero più lavoro. È possibile, ma non è così semplicistico. Valentina, buongiorno. Buongiorno, sto sentendo e mi fa ridere perché io sono abbastanza grande come età, ho fatto analisi per molti anni. C'ho una voce così che sembra un uomo, ma perché praticamente... No, c'ha la voce esageratamente da vecchia, c'ha 61 anni, è mia coetanea, faccia una voce più squillante. Faccio la voce più squillante, ecco, ma già... vede, il ricordo proprio di un'affettività materna. Mi ancora si ricorda sua madre, a 61 anni? Sì, da un anno. E quindi l'affettività materna cosa le ha fatto? Mi ha lasciato talmente tracce anche sul fisico, perché questa voce così è provocato da un intervento mal riuscito che mi ha provocato praticamente una non voce. Ma sua madre cosa c'entra in questo intervento? C'entra perché non ero ascoltata, non sono stata mai ascoltata, i miei ricordi appunto di anaffettività totale mi hanno poi portato a colpire praticamente il mio fisico proprio nei punti dove mia madre non mi ascoltava, perché la mia voce adesso è migliorata, ma è stata afona per molto. Ma quindi lei si è, diciamo, procurata inconsapevolmente o no, inconsapevolmente delle lesioni laddove sua madre non riversava la sua attenzione? Esatto. Giuseppe, cosa ha fatto questa signora? Poi non è che abbiamo qua adesso lo psichiatra risponde, però mi interessava capire i vari meccanismi naturali, spontanei e artefatti di rimozione del ricordo. Penso che la signora invece abbia sicuramente alle sue spalle un percorso in cui ha approfonditamente analizzato, valutato e ripercorso tutti questi processi, quindi ho la sensazione che lei abbia acquisito una consapevolezza di tutto questo processo proprio perché ha avuto, immagino, l'opportunità in un contesto, in un setting appropriato di riconsiderarlo, di valutarlo, e quindi quello che ci comunica è il frutto di un percorso che penso sia durato molti anni e l'abbia portata adesso a questa consapevolezza di questi processi che si sono svolti nell'arco della sua esistenza. Però comincio a capire che la notizia fantastica della pillola rimuove i ricordi appoggia su un grande profondo desiderio di fare in fretta e presto questi lavori che vedo che impegnano anni e una gran parte di energia ed emotività. A tutti forse piacerebbe, non dico cancellare, ma poterci fare qualcosa su questi ricordi. Irene. Ecco, buongiorno. Volevo ricollegarmi a quanto ha detto l'ascoltatore di prima. Sono d'accordo un po' con lui, perché a me è successo qualcosa di questo genere, cioè nel momento in cui i ricordi e i rimpianti di un qualcosa che non potevo più avere e che mi davano contemporaneamente al dolore anche delle emozioni di sentirmi viva, io ho deciso di deporre questi, cioè siccome la bilancia pendeva troppo dalla parte della sofferenza, ho immaginato di deporre, quindi razionalmente un fatto razionale, ho immaginato i ricordi in un fagottino con la persona che mi determinava questi ricordi e questo dolore, di deporli su un fiume in piena, di lasciarlo andare proprio con le mani che si aprivano e il fagottino andar via. Cioè li affogarli praticamente. Sì. Però ecco, per prenderne le distanze, non per annullare la persona, perché non me lo sarei consentito, cioè ho sempre mantenuto degli ottimi rapporti. Sì, però, di solito guardi, anche gli storici e biblici infanticidi sono sempre fatti così, si mette il bambino su una cesta, su una culla, si affida al fiume e si affida alla provvidenza. Giuseppe, proprio una conclusione. Ma io direi che dovremmo un pochino aver presente il fatto che questa aspettativa miracolistica di elementi esogeni, cioè che vengono da fuori e che entrano dentro di noi per sostituirsi alla nostra capacità di fare i conti con la nostra esistenza, è un rischio che dovremmo aver presente con molta cautela perché secondo me è una forma di consumismo psicologico, come se ci fosse il sex machina chimico che viene e mi fa con la schiuma frenata, come si diceva una volta, un buon lavaggio delle aree sporche. Non è per niente così. Quindi in conclusione siamo tutti d'accordo che in realtà la scelta giusta sia quella della pillola rossa. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.